Sono le 8:31 di lunedì 30 luglio 2018 e io credo che si possa abbastanza serenamente cominciare a fare qualche bilancio di questi primi mesi di teatrino che si è sostituito al governo, perché di questo stiamo parlando. Non ci sono reali istanze di governo. Lasciamo perdere l'aria condizionata che entra nel microfono. Non ci sono perché, forse perché non servono. La vera lotta è quella per conquistare i titoli di giornale, vabbè, questo è abbastanza prevedibile. Però quello che sorprende è che le persone, soprattutto le persone che tutti i giorni commentano l'evoluzione della politica sui social network, non se ne rendono conto, cioè subiamo tutti quanti passivamente l'agenda dell'informazione stabilita dai politici che riescono con le loro sparate a occupare i giornali, i media, e poi appunto ci sentiamo infinitamente moderni e indipendenti nel commentare, nell'accapigliarci tutti i giorni su quello che hanno deciso questi spin doctor denuanti. Per intenderci, questo governo non ha chiuso i porti assolutamente, non ha fatto il reddito di cittadinanza, non farà credo la flat tax. Sono tutte cose che non si fanno banalmente perché esistono degli ostacoli tecnici. Si fanno altre cose più semplici che però hanno il potere di occupare l'agenda dell'informazione, tipo la battaglia sui vitalizi, quasi ininfluente direi. Per un'intera giornata abbiamo parlato della dismissione dell'aereo di Renzi. E la cosa affascinante è che dall'altra parte per un giorno i maggiori esperti di comunicazione eccetera di cosa parlano? Comunque dell'aereo di Renzi, quindi fondamentalmente sanciscono la vittoria nell'occupare l'agenda dell'informazione degli avversari politici. Non solo la sanciscono, ma la alimentano questa vittoria. Io penso che dovremmo cominciare davvero a guardare le cose con occhi diversi, perché se quando abbiamo avuto Berlusconi e in una certa misura anche Renzi c'è stata la sostituzione del piano della realtà a un piano della rappresentazione, però poi la realtà andava sostanziata. Qui l'unico modo, essendo sparita l'informazione, visto appunto che i nostri media non aspettano altro che essere occupati dai discorsi inconsistenti di questo non governo, di questa non politica, l'unica chance è smettere di sperare di potersi informare e cominciare a documentarsi, per esempio per capire che cosa sta facendo in termini reali di governo questa nuova classe dirigente. Un buon sistema è ascoltarsi, ma non dico sempre, ma ogni tanto qualche dibattito parlamentare su Radio Radicale, che come sapete fa molta più documentazione che informazione, per scoprire per esempio che all'interno del decreto dignità ci sono i punti più importanti sono gli emendamenti scritti dal PD, forse anche perché i grillini non le sanno neanche scrivere le leggi per il momento. E tra l'altro c'è anche un livello di collaborazione reale sul campo tra le parti politiche che non ha niente a che vedere col teatrino dei talk show, del botta e risposta eccetera, nel senso che poi alla fine questa gente lavora e fa anche, adesso so di dire una cosa impopolare, ma nel momento in cui si collabora si fanno anche delle cose sensate, ma banalmente perché il livello è così basso che basta davvero mettersi d'accordo su qualcosa di sensato, che poi alla fine non è nemmeno così difficile realizzarlo, purché accada in silenzio, lontano dai riflettori, dai microfoni, dalle telecamere. E ovviamente il segreto per smettere di provare a informarsi e iniziare a documentarsi e fare delle cose che pochissimi fanno. Non dico leggersi la Gazzetta Ufficiale, però andare proprio alle fonti dirette. Un primo passo importante è uscire da Facebook, e questo è un tema un po' che di cui tratteremo parecchio al Festival di Pisa, di cui mi sto occupando con una sezione che si chiama Off the Platform, perché se avevamo una chance, quella appunto di sfuggire all'agenda imposta da qualcun altro e inseguire le nostre curiosità, i nostri interessi, le nostre passioni, la stiamo drammaticamente buttando a mare.